fuego, a fuego, a fuego, maquinita, a fuego. Yo te quiero dar, papi, sin miedo. Yo te quiero dar, papi, sin miedo. Ay, dale, dale, dale, dale. Yo quiero romper modales, romper dale. Ay, ay, dale, dale, dale, dale. A los sigridad, sigridad, sigridad, dale. Ay, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Ay, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Ay, dale, dale, dale, dale. Yo quiero romper modales, los modales. Ay, ay, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Dale, vamos, dale, ay, ay, dale, dale, dale, dale, a la seguridad, seguridad, seguridad, dale, ay, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, ay, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, ay, dale, dale, dale, dale, yo quiero romper modales, los modales, ay, ay, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale.